Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Toccare le nuvole di Philippe Tite. Lettura di Massimo Popolizio, musiche di Javier Girotto. Mi chiamo Philippe Petit, sono nato a Namur, vicino al castello di Fontainebleau, poco sotto Parigi, perché era il 13 agosto del 1949. Sono andato a scuola, ma la mia formazione è da autodidatta, perché dalle scuole sono sempre stato espulso. La gente dice che io sia un funambolo, ma io sono anche un mimo, un giocoliere, un artista. La polizia mi ha cercato, incarcerato, è schedato, eppure il mio nome è ricordato per tante imprese folli e la più spettacolare è sicuramente la traversata delle Torri Gemelle di New York. Le avevano appena costruite. Confidenza con il suo nuovo territorio, il funambolo si sente solo. Se ne vedrà a lungo la sagoma immobile, aggrappato con le mani alla passerella davanti a questo cavo orizzontale sul quale non osa mettere il piede. Si crederebbe che egli beva pigramente il sole al tramonto. Non è così. Egli sta prendendo tempo. Misura lo spazio, palpa il vuoto, soppesa le distanze, controlla lo stato degli attrezzi, li predispone, assapora fremendo quella solitudine. Sa che se ce la farà, sarà funambolo. Thank you. suoi timori, pensare fino a sé il coraggio che gli resta, ma tutto ciò richiede troppo tempo. Il cavo guadagna terreno, il cielo diventa cupo, ora un centinaio di metri lo separano dalla piattaforma di fronte. Il suolo non è più allo stesso livello, è ancora più basso. Dei gridi giungono dai boschi. La fine del giorno è prossima. Al culmine della disperazione, il funambolo impugna il bilanciere e sul punto di desistere, passo dopo passo, passa. È il suo primo successo. Resta lì per comprenderlo con gli occhi posati su quella piattaforma tutta nuova, mentre l'oscurità corre raso terra. Condivide con le cime degli alberi la luce che si attarda, più leggera dell'aria. Solo sul filo si circonda di un'allegria aspra e selvaggia, compiendo traversate spensierate e prive di ordine nell'umidità della sera. Appende il bilanciere alla passerella prima di prendere posto in cima al palo, in seno a un frammento di spazio nero e ghiacciato per accogliere senza angoscia la notte che viene. La sorpresa durò molti giorni. Correva ogni mattina verso il filo facendo grandi salti sopra le erbe per non appesantirsi di rugiada e, distratto da troppa felicità, camminava semplicemente avanti e indietro. Alcuni si servono di questo va e viene per credersi funamboli, mentre il vero uomo di filo non accetterà questa monotonia orizzontale. Sa che la linea sulla quale si impegna non ha misura. Nel silenzio, senza compagnia, egli porta sul grande cavo tutto ciò che sa della terra. Evita i movimenti che lo spazio non tollera e raccoglie gli altri in una sequenza che leviga, affina, alleggerisce e stringe prima di tutto contro se stesso. Ogni giorno addomestica un nuovo elemento. Ben presto esce sul filo senza altro scopo che sorprendere l'idea di una combinazione imprevista. Parte alla caccia e le sue prede le appende al cavo. In seguito si diverte compiendo sul filo camminate senza importanza, atteggiamenti scherzosi, esercizi senza avvenire come l'orso dello zoo che sguazza nella vasca. E se perde gusto al movimento fino a non poterne più, tanto vale che si riposi sul filo piuttosto che scendere. Perché prima di mettere il piede a terra, un risultato, per quanto minimo, deve essere raggiunto. Dopotutto è in gioco il titolo di funambolo e il filo va lasciato per gloria piuttosto che per stanchezza. Ora che il funambolo sa come condurla, la seduta di allenamento sarà ogni volta più lunga e più preziosa e la giornata non avrà più senso se non sotto forma di filo. Da circa 4 anni incomincio a provare disprezzo per i miei simili. Mi arrampico su qualunque cosa me ne possa allontanare. A 6 anni annuncio, da grande voglio diventare regista teatrale. E imparo da solo a fare i giochi di prestigio. Gioco per 10 anni con il disegno, la pittura, la scultura, scherma, stampa, falegnameria, teatro ed equitazione. Sempre con grandi maestri faccio miei la concentrazione, la tenacia, il rispetto per i ferri e la passione. La reazione dei miei genitori alla mia ostinata individualità non fa che affrancarmi da loro a 17 anni. Divento giocoliere e funambolo autodidatta. A 18 anni sono stato già espulso da 5 scuole per aver borseggiato i miei insegnanti e manipolato carte da gioco sotto il banco. Mi rifiuto di dare esami per dimostrare che so leggere, scrivere e fare di conto. Così metto a repentaglio le mie opportunità di fare lo spazzino o lavorare in banca. Me ne vado di casa e divento artista di strada, un giocoliere abusivo. Vengo spesso arrestato. Dovunque. Nessuno desidera assumermi perché ostento un'assurda arroganza. Per un certo tempo faccio di tutto per non cambiare, ma diventa fondamentale scrivere, giocare a scacchi, imparare il russo, la corrida, scoprire l'architettura e l'ingegneria, inventarmi nascondigli, costruire le case sugli alberi, esercitarmi a scassinare le serrature, mi abbandono alla mia sete di conoscenza e affino il mio perfezionismo. Questa catena di eventi mi porta a immaginare un cavo metallico teso in segreto da qualche parte e esibirmi su un palcoscenico irraggiungibile e autoimposto, sì, nel totale disprezzo per l'autorità costituita. L'avventura al World Trade Center nasce sul filo di questi pensieri. Nella sala d'attesa di un dentista di Parigi, sì, inverno, parigino del 1968, ho soltanto 18 anni, sono libero, ribelle e diffidente. Un dolore alle carie mi obbliga ad entrare nella sala d'aspetto di un dentista. L'aria è pesante, il soffitto basso, la tappezzeria ripugnante. 2 nude lampadine da 40 watt rivelano una mezza dozzina di persone anziane che accolgono il mio ingresso con disgusto e sospetto. Prendo un fascio di vecchi giornali e li sfoglio il più rumorosamente possibile. Tutto a un tratto il silenzio. Sì, io sono catturato da una illustrazione. Leggo e rileggo il trafiletto. Su un edificio fantastico le cui torri gemelle alte 110 piani sorgeranno entro pochi anni sopra New York e faranno il solletico arce. Beh, io dovete sapere che io devo avere questo articolo. Ma è quasi un delitto nel mio paese privare l'anticamera di un professionista di materiale di lettura superfluo, strappando via una pagina. E allora io comincio a fissare intensamente le mediocri riproduzioni delle ninfee appese un po' di schermo sopra l'orologio a pendolo, come se un insetto enorme stesse strisciando sulla tela. Beh, dopo un po' anche gli altri alzano la testa e si mettono a guardare il quadro. Beh, a quel punto, con un gigantesco strappo il rumore con una pagina e me la infilo sotto la giacca e scappo via. Mi ci vuole una settimana per trovare un altro dentista, ma il dolore che patisco è niente in confronto al sogno appena intravisto. Thank you. Alle 5 nel pomeriggio della corrida, il toro viene fatto uscire all'improvviso dalla cella buia in cui è rimasto segregato per giorni senza cibo. Schiumante di rabbia, si lancia nell'arena sconosciuta, impaziente di combattere, ma non trova altro che sole abbagliante e voci urlanti, e cieco, solo, sperduto, spaurito. Non c'è niente nella moltitudine di ricordi immagazzinati dentro di lui che somigli a un'arena senza nemico. Non esiste. E lo stesso vale per quella sensazione di essere impotente, di avere il mondo contro. È quello che provo io uscendo dalla fermata del metro ai piedi del World Trade Center dopo una lunga corsa sotterranea. Il volume delle torri, la loro imponenza mi urlano una sola parola, la appiccica alla mia pelle, mentre sosto sui gradini appoggiato al corrimano. Impossibile, impossibile. Non posso respirare e non posso muovermi, o parlare o pensare. Sono sconvolto, il mio sogno è in frantumi, sì, ho paura, e mi aggrappo al corrimano come un invalido. Il mio esame minuzioso cede a quei due monoliti giganteschi e la parola impossibile incide sempre di più profondamente nel mio essere. Deluso, sconfitto, sto per ritirarmi su, ma la U maiuscola e in netto delle torri si trasforma in una potente calamita di proporzioni gargantueniche che mi attrae più vicino alla sua base. È i tuoi sorveglianti. Supero la piazza ancora in costruzione. Raggiungo una delle torri, giro l'angolo e mi fermo a pochi centimetri dalla facciata metallica, spessa più di 2 metri. Ai miei piedi l'incastro fra pannelli verticali di alluminio e lastre orizzontali di cemento è perfetto. Ma il muro non comincia certo dove mi trovo, senza dubbio deve innalzarsi dalle viscere della terra. Incollo il mento al gelido alluminio e spingo lo sguardo verso l'alto cercando la fine del muro, ma non c'è una fine. La sua altezza è talmente inafferrabile, la forma così aliena che la parola spaventosa impossibile, impossibile. Impossibile, si fissa nel mio cuore, mi opprime a tal punto da mozzarmi il fiato. Vorrei fuggire, ma quel magnete colossale continua a controllare il mio destino, mi trascina verso l'altra torre dove scopro un'entrata incustodita. Striscio all'interno di uno stretto corridoio. Mi abbasso sotto una catena che segna divieto di passaggio. Incomincio a salire le scale di emergenza, salto in ascensore, vado su e giù e mi perdo per evitare i sorveglianti. Trovo una scala di sicurezza e mi ci arrampico in fretta, oltrepassando piani occupati da uffici dove risuonano attività frenetiche. Salgo così sempre più in alto, dove gli uffici ora sono vuoti e silenziosi. Poi i piani non sono più suddivisi, non ci sono più muri, vedo solo finestre e finestre e finestre e finestre e finestre e finestre attorno a me. Incontro alcuni operai a cui il linguaggio del mio corpo dichiara: cosa avete da guardare? Qui il padrone sono io! E salgo, salgo, salgo, salgo per più di un'ora finché respiro l'aria fresca della cima attraverso la giungla d'acciaio dell'ossatura. Con un piccolo aiuto del cielo, senza fiato e libero, riesco a infilare la testa in un'apertura del soffitto. La mia scaletta sbuca sul tetto in prossimità del centro. Mi fermo un istante al riparo, sul penultimo gradino della botola, smarrito, in contemplazione. Salgo sul tetto, nessun parapetto. Se vado oltre, finirò la mia corsa nell'aria sottile, trasformato in uccello. Il tetto è deserto. Malgrado la sua vastità, il fatto di essere aperto su tutti i lati lo fa sembrare minuscolo, quasi fragile. È il nido indistruttibile di un uccello predatore, è una fortezza in balia di ogni vento. La città è svanita, il mondo non è più in movimento, non c'è più un attorno, né un laggiù. Il connubio di altezza e solitudine mi riempie di un senso arrogante di proprietà. Il cielo è il mio regno. Incerto che non sia solo un sogno, ma al tempo stesso consapevole della mia condizione precaria, evito di causare vibrazioni inutili con il movimento del mio corpo e così mi avvicino in punta di piedi al lato che dà verso l'altra torre. Eccola, un'altra immensa lastra galleggiante, così vicina eppure a un continente di distanza. E rivedo quella parola, impossibile stagliarsi nello spazio fra i tetti, in tutta la sua oscena obesità sillabica. Muovendo la testa da sinistra a destra e sillabando come un bambino di prima elementare, la leggo e la rileggo e poi la leggo ancora, impossibile. Mi sporco verso il bordo, pronto a scendere di 3 metri lungo i pilastri inclinati, fino al cornicione largo 15 centimetri che unisce il 110° piano con 412 metri di verticalità. Così, per guardare dritto giù e invece... Perché in quel momento ho una folgorazione. Con le mascelle serrate, gli occhi socchiusi, orripilato, deliziato, riesco a bisbigliare il mio primo pensiero. È impossibile, certo, eppure ce la farò. ricerca dell'immobilità. È il mistero della danza sulla corda. La linfa, l'immobilità. Poco importa il tempo necessario per raggiungerla, forse dovrei dire, non so, per avvicinarla. Per avvicinarla il funambolo si fa alchimista, rinnova il suo tentativo lungo il filo dove le braccia sembrano pendere inutili lungo il corpo che pesa 10 volte il suo peso. Il sapore di un secondo di immobilità, se il filo me lo concede, è una felicità intima. Ora, arrivate a metà del cavo con la più armoniosa delle vostre camminate. Disponetevi in stato di equilibrio. Attendete. Il bilanciere si confonderà con l'orizzonte e il corpo si sistemerà su 2 gambe solide e fisse. L'immobilità sarà lì, pronta per l'appuntamento. Ah, è questo che state pensando, lo so, perché voi credete di essere immobili. Sì, sì, sì, io non mi muovo più. Ecco, ecco, guarda, guarda come sono immobile. Ah. E quel vostro sguardo che sorveglia, che si aggira, eh? Io ho sorpreso i vostri occhi lungo gli alberi e quei pensieri nella vostra testa che balbettano senza tregua e il sangue nelle vene, gorgogliante come un ruscello nella stagione delle piogge e il vento nei capelli e il filo che vi fa girare la testa e l'aria che inghiottite e masticate. Quanti rumori! I minuscoli abitanti delle erbe non hanno mai visto un essere così agitato. E la ricerca dell'immobilità diventa ancora più incerta se si abbandona il bilanciere, ma è essenziale. Bisogna consacrarvisi. In equilibrio su un piede, il piede d'appoggio, poi portare progressivamente le braccia e le gambe libere in posizione di riposo e mantenere questa posizione. Questo è il primo punto. In seguito portare la gamba libera in avanti o dietro l'altra con 2 piedi sul filo. Le braccia fanno da bilanciere e vanno agitate sempre più debolmente. Questo è il secondo punto. Adesso bisogna eliminare le braccia incrociandole davanti a sé o lasciandole pendere con naturalezza o anche mettendole dietro la schiena, ma tutto questo accade di nascosto, come dire, clandestinamente. E questo è il terzo punto. D'ora in poi è una questione di pazienza tra voi e il filo. Avvicinatevi e sentite. L'equilibrio non esiste più. Spiate l'istante in cui taglierete di netto la respirazione e una pesantezza d'oltretomba vi schiaccerà contro il cavo attraverso il quale spingerete il vostro respiro. L'aria dovrà entrare dall'estremità del filo, percorrerlo lentamente, trapassare la punta dei piedi, risalire lungo le gambe, inondare il corpo raggiungendo le narici. L'espirazione sarà fatta senza pause per la stessa via. Emetterete dolcemente dalla punta delle labbra l'aria che scenderà, colerà attorno ad ogni muscolo, sposerà la linea dei piedi e si reintegrerà nel filo. Controllate il respiro durante il percorso. Continuate fino a farlo scomparire attraverso l'estremità del filo, così come era avvenuto. La respirazione si farà lenta, distesa, lunga come un filo. Solo così voi diventerete corpo unico con l'installazione. stazione, solidi come una roccia, ci si sentirà oggetto di equilibrio, si diventerà il cavo. A chi ha costruito questo equilibrio senza difetto, fragile, fugace, sembrerà di possedere la densità del granito. Se nessun pensiero venisse a turbare questo miracolo, durerebbe in eterno, ma l'uomo che si meraviglia di tutto e di se stesso, ben presto si smarrisce. Il punto preciso dell'equilibrio plana sopra il filo, urta il funambolo, naviga come una piuma sotto il vento dei suoi sforzi. Se questo vento si indebolisce e muore, la piuma entrerà nel funambolo per addormentarsi poi nel suo centro di gravità. È così che si raggiunge la calma relativa, l'equilibrio serrato e raramente il breve attimo di immobilità assoluta, finché il vento dei nostri pensieri, più violento di quello dell'equilibrio, tornerà presto a far volteggiare verso le nubi questa piuma così sensibile. Thank you. 1974. Andiamo con il camion al World Trade Center. Rallentiamo all'imbocco della rampa. Il coup è iniziato. Al volante del camion, Jean-François esibisce i nostri tagliandi di consegna falsi al gabbiotto della guardia e si dirige verso il piano di carico della Torre Sud. Al montacariche, decine di uomini in tuta manovrano carrelli strapieni, si muovono in fretta, sbattono l'uno contro l'altro e gridano ordini, si spintonano per entrare nella prima cabina disponibile. Il caposquadra ci viene incontro e esamina il nostro aspetto depresso e il nostro insignificante carico di merci, indica il montacariche e ci chiede dove siamo diretti. Faccio finta di non sentire. Spingiamo i carrelli nei montacarichi. La cabina oscilla, l'addetto si mette i fogli tra i denti per liberarsi le mani, afferra la maniglia, si parte, dice, che piano? Io guardo l'addetto dritto negli occhi e dico, senza esitazione, 104. 104, fa lui. Ma non c'è niente lassù, è tutto vuoto, lo sappiamo. Ma dobbiamo portare della roba per la recinzione elettrificata sul tetto e dei pozzi per l'antenna. Dico io, mostrando la cassa del bilanciere e tentando di minimizzare il mio accento francese. Invece sto pregando che quell'uomo ignori che l'antenna la stanno irrigendo sull'altra torre. Va bene, state attenti alle mani, avverte l'addetto meccanicamente, lanciando la gabbia verso l'altro con il più bel cigolio che io abbia mai sentito. 104! Grida. Attenti alle mani! E via, si parte. Alcuni minuti più tardi, boom, siamo arrivati. E il montacarichi piomba nel buio. Sento dei colpi distanti, delle conversazioni lì nelle vicinanze e il suono smorzato di apparecchi elettrici in via di spegnimento. Beh, è finito l'orario di lavoro, ma il piano non è ancora deserto. Gli operai sembrano venire proprio nella nostra direzione. Inizio a cadere nel panico e velocemente riponiamo l'attrezzatura contro la tromba delle scale. Non c'è tempo per nasconderla perché sento della gente che scende dal tetto e noto un'immensa tela cerata verde in mezzo al pianerottolo. Corriamo in quella direzione, non c'è tempo di pensare. Sollevo la spessa tela e buio, via, e scaramento Jean-François lì sotto. E poi mi ci butto dentro anche io. Dove siamo? Ma che succede? Stiamo salendo ancora e miracolo, siamo atterrati su una stretta putrella che domina tre piani di vuoto. Una specie di ascensore di servizio in costruzione che è sfuggito alle mie perlustrazioni. Ora siamo seduti uno di fronte all'altro su una putrella larga 20 centimetri, l'uno con i piedi nell'inguine dell'altro e con le mani strette al sottile bordo della trave per rimanere in equilibrio. Dovrebbero essere le 16:30. Il nostro obiettivo è rimanere immobili e silenziosi fino all'arrivo della notte. Diciamo, siamo in trappola. Sotto quel telone verde, Jean-François e io veniamo abbandonati alla nostra immobilità e alla nostra cecità. È presto. Mi ritrovo a rincorrere le immagini della mia avventura. Vado dal dentista, vedo le polli per la prima volta, faccio il mio volo in elicottero, penso ai mesi di organizzazione, sento la disperazione e cerco invano un altro posto. Ed eccomi che fabbrico documenti falsi, che faccio un viaggio pietoso a nord di New York, che inizio la mia nuova organizzazione, ma François mi interrompe, vuole sapere che ora è, ma come cazzo posso saperlo? Rispondo e tasto il mio robusto orologio da tasca attraverso i pantaloni, l'esercizio di estrarlo e di portare il quadrante sotto la debole luce che filtra da un buco sembra richiedere mezz'ora. E finalmente dico a François, sono le 8. Bastardo, mi risponde lui con un sussurro. Thank you. precauzione e dimenticandomi di parlare sottovoce, dico al mio amico di uscire e rimanere scalzo, di afferrare con me i due rotoli collegati del cavolo della traversata, ma è enormemente pesante. Sollevo attentamente la testa, mi guardo in giro e andiamo, dico. Scivoliamo silenziosi fuori dal nostro pozzo, incespichiamo invisibili verso la scala. Ciascuno di noi adesso solleva un rotolo e in un gesto folle e ostinato io sollevo anche la borsa piena di fili per i cavalletti e la aggiungo al mio carico. Jean-François è 2 metri davanti a me, con le gambe che gli tremano e come prigionieri incatenati l'uno con l'altro facciamo lentamente strada verso l'alto, un gradino alla. Sul terzo gradino il cuore mi si ferma. Davanti a me, visibile attraverso l'ossatura della scala, a 15 metri appena distante, con i gomiti appoggiati ad un piccolo tavolo sotto la luce di una lampadina nuda, un uomo in uniforme mi fissa con gli occhi semichiusi. Sul tavolo verde una grande torcia, un walkie-talkie e un berretto da guardia. Mi sporgo all'indietro per fermare la scalata di Françoise. Se lo fermo mi guarderà e se mi guarda io gli lancerò l'occhiata più drammatica che posso, avvertendolo dell'imminente disastro, segnalandogli soltanto con gli occhi non muoverti, non respirare, ma continua a scivolare verso l'alto. La guardia ha gli occhi puntati su di me, ma sembra non vedermi. È inquietante, come se i suoi occhi mi stessero trapassando. Beh, forse sta dormendo, ma cosa, con gli occhi aperti? È un ciccione americano, ma che sia sotto l'effetto di qualche droga. Ma François non si ferma, al contrario, mi tira verso il tetto, però io resisto e per un istante partecipiamo a un surreale tiro alla fune e vince lui. Per uscire dal campo visivo della guardia ci sono voluti appena 3 secondi e ora, schiaffeggiati da un vento fresco sotto questo peso enorme, crolliamo silenziosamente l'uno addosso all'altro sul tetto come bambole di pezza. François mi bisbiglia vittoriosamente all'orecchio in francese strettissimo: avevo visto la tua stupida guardia molto prima di te, ma ho pensato che era meglio non fermarsi, è per questo che ti ho tirato, bastardo, gli rispondo. Nonostante il lavoro frenetico, io guardo la torre nord ogni 3 secondi. Dal suo liscio e morto centro, dalla sagoma scura, spunta gradualmente una minuscola antenna. È il braccio di Jean-Louis, il mio amico, sull'altra torre. Il mio amico che è in cima, lì all'altra torre, ora eretto, immobile, è pronto a tirare e attende il mio segnale. In risposta io dovrei sollevare il braccio per 10 secondi e poi, per proteggerci, François e io dovremo metterci distesi sotto ai binari alti 30 centimetri per il lavaggio delle finestre. Poi Jean-Louis conterà fino a 10, punterà l'arco verso la riva del New Jersey, tenendo conto del forte vento da occidente, scaglierà la freccia attaccata al filo da pesca. Secondo le prove, la freccia atterrerà vicino al centro del mio tetto. Io sollevo il braccio. Jean-Louis abbassa il braccio, lo risolleva per farmi capire di aver riconosciuto il mio segnale. Poi il braccio si abbassa lentamente e cade nella penombra del tetto. Come prigionieri in fuga, tratteniamo il respiro e rimaniamo distesi, perfettamente immobili. Ascoltiamo la notte a 412 metri di altezza. Niente. Io sono esausto. Sono sul punto di svenire e nella più cieca disperazione c'è lui, ha mancato il chilo. Il coup è fallito. Una sfida fisica mi fa strisciare carboni nel buio, in tutte le direzioni. Niente. Percorro a tastoni la ruvida superficie di cemento, grattandomi le mani. Niente. Nessun filo, nessuna freccia. Senza pensare troppo, io mi strappo i vestiti di dosso. Il mio corpo nudo localizzerà ciò che le mie mani non possono. E con le braccia in fuori io setaccio l'oscurità e incespico nell'attrezzatura. Mi taglio il graffio più forte, ma non c'è nessun maledetto filo da pesca. Furibondo, tento di calmare i miei pensieri quando, al mio fianco, io percepisco la carezza incredibilmente lieve di un filo da pesca che ondeggia nel vento gelido. Io percorro il filo con le dita fino a raggiungere la freccia dove si trova, incredibilmente, in precario equilibrio su un canale perimetrale d'acciaio sopra l'abisso. Ancora un centimetro ovest e avrebbe mancato la torre. Io chiudo la mano intorno alla freccia proprio quando una folata improvvisa rischia di spostarla. Ora sono in paralisi, nonché congelato dalla testa ai piedi. L'installazione adesso procede senza sforzi. Jean-Louis Albert tira la corda gialla a cui io ho legato un'estremità del cavo. La fune d'acciaio scorre senza intoppi nel vuoto e scompare lentamente nell'oscurità. Il cavo adesso si fa più leggero, come se prendesse vita, ma ora sta accelerando, guarda, sta accelerando, accelera la discesa. Jean-François ed io tentiamo di rallentarlo, ma il peso e la velocità sono troppo forti, rischiamo di trascinarci nel vuoto. Dobbiamo lasciarlo andare. Improvvisamente il cavo si inabissa a tutta velocità con uno stridore apocalittico. Io levo di mezzo il mio amico, spingendolo via appena in tempo, mentre le spine mortali del cavo si lanciano furibonde. Io mi scaglio velocemente sul lato capo del cavo, afferro la chiave, stringo il morsetto più rapidamente possibile. Dietro di me sento il boato dei 60 metri del cavo fuori controllo. Proprio quando il morsetto è finalmente stretto, le ultime spire del cavo si srotolano con una tale furia che io devo gettarmi da una parte. Lo shock è terribile. Il pilastro vibra, il morsetto scivola, poi ritorna il silenzio, siccome se nulla fosse accaduto. A mio fianco, grazie ad un lavoro di installazione diabolicamente veloce, il cavo è al suo posto. Di sotto sono le 6:45 del mattino. I miei amici, che guardano ansiosi con il binocolo in attesa del mio primo passo sul filo, non si accorgono degli spintoni dei primi pendolari che escono dalla metropolitana. Quassù il tempo non ha più senso. Mi giro faccia a faccia con il filo e poso lo sguardo sul bilanciere. Asciugo il sudore delle mani, sfregando i palmi contro i pantaloni. Fra gioia e paura, sussurro a Jean-François, come se dovessimo entrambi montare sul filo. Facciamolo. Andiamo. Ed un tratto, la densità dell'aria non è più la stessa. François cessa di esistere. La torre di fronte è vuota, la ruota dell'ascensore non gira più, l'orizzonte è sospeso da est a ovest, New York non espande più la propria infinità, il mormorio della città si dissolve in uno scompiglio di cui io non percepisco più né il cielo né la forza. Sollevo il bilanciere, lo scuoto, lo manovro tra le dita per trovarne il centro, per abituare le braccia al suo peso, così come faccio prima di tutti i miei spettacoli. Raggiungo il bordo superiore, scavalco la trave, poso il piede sinistro sulla fune d'acciaio, il peso del mio corpo rimane sulla gamba destra, ancorato al fianco dell'edificio, appartengo ancora al mondo materiale. Se continuo a spostare il peso verso sinistra così lentamente, la gamba destra si alleggerirà e il piede destro sarà libero di raggiungere il filo. Da un lato la massa di una montagna, dall'altro l'universo delle nuvole, tra i due un sottile filo su cui il mio essere esita nel distribuire le forze rimaste. Davanti a me la cima della Torre Nord, 60 metri di cavo. Non si torna indietro, è una linea retta che dondola e vibra, che dondola e vibra, che dondola. Infinita, gioiosa morte allunga le braccia e un urlo interiore mi assale, il desiderio irrefrenabile di scappare, ma è troppo tardi, il filo è pronto, il cuore è premuto contro quel filo con tale forza che ogni battito echeggia e si dissolve ogni altro pensiero e il secondo piede si posa con decisione su. Inondato dallo stupore e da un'improvvisa ed estrema paura. Oh, la paura. Qualche volta attorno al filo, il cielo si oscura, si alza il vento, il cavo si raggela, il pubblico diventa inquieto, io sento urlare dentro di me. Il filo smette di respirare e io pure. È il preludio della catastrofe, implacabile come quando il rullo del tamburo annuncia l'esercizio più difficile. In questa attesa della caduta, io arrivo a maledire il filo, ma non ne ho mai paura. So soltanto che un giorno questa angoscia riapparirà sull'orlo della piattaforma. In un giorno tremendo mi aspetterà ai piedi della scala di corda. Oh, avrò un bel agitarmi, prendermi gioco di lei, ma il giorno dopo sarà ancora lì, nel mio camerino, mentre indosso il costume con le mani umide per lo spavento. In seguito tornerà nei miei sogni, mi schianterò mille volte in rimbalzi lenti sulla pista di un circo in assenza di peso. Al risveglio sarà su di me, vischiosa, indelebile, la paura, e non mi lascerà mai più. E di questo, solo di questo, Dio mio, io ho una paura folle, di immaginare che una sera abbandonerò il filo come tanti torelli hanno rinunciato alla sabbia dell'arena per rifugiarsi nella vita, di dover rispondere: ho avuto paura, ho incontrato la sabbia. Essa mi invade gioie ed orgoglio, io mi tengo in equilibrio sul filo e un sapore ancora irriconoscibile mi pervade la lingua, il desiderio di librarmi in volo, gli dèi dentro di me. Determinazione, tenacia. Ora è il momento, è dato dalle tue mani piene di stretta bilanciere, è il momento è dato dai tuoi piedi, aggrappati a quel cavo d'acciaio. Ecco, gli dèi nel bilanciere, continuate a soffiare la vita in quelle braccia artificiali, portatele voi, dategli vita, rimanete pesanti, solidi, rimanete orizzontali, voi non siete un meccanismo, siete uno strumento. Siete un'estensione delle mie braccia, di me. Continuate a respirare, continuate ad oscillare. Siete la vita, la mia vita. E vi dico, portatela, trasportate la mia vita dall'altra parte. Gli dèi nei miei piedi, gli dèi sanno come colpire il cavo, come non farlo muovere. Chiedo ai piedi di posarsi sulla coda d'acciaio in modo che l'impatto di ogni passo assorba il dondolio del cavo, le sue oscillazioni verticali e la sua torsione lungo l'asse della traversata. Ecco, ora i piedi rispondono gentili, comprensivi, conversano con il filo e incitano l'essere vivente che sbuffa e soffia sopra di loro a lasciare andare la rabbia e a prendere il controllo, funambolo, fidati dei tuoi piedi. Lascia che ti guidino, loro conoscono la strada. Gli occhi si salgono al metallo del pilastro d'arrivo, ancora lontano, e che tuttavia mi viene incontro e così raggiungo la temuta metà della traversata, lì dove la gravità è la più barbara e l'esposizione la più feroce. Il terrore mi tinge il sangue. Lo spazio non contiene più se stesso. Il cielo mi ingoia. Che bella morte sarebbe, che glorioso delirio, rubare i segreti della mancanza di peso in quel modo. Ma adesso io blocco il cavo, lo obbligo a non tremare più, lo abbandono lì e avanzo di qualche altro passo, sostenuto dall'atmosfera che si incolla all'enorme muro che sto reggendo. Tra la folla, 412 metri più sotto, qualcuno grida: sta saltando, sta saltando. Ciascuno di essi si inginocchia e prega: sii attento, Filippo, sembri così fragile e così forte. Ciascuno con le mani tese verso l'alto per sostenermi, per implorare il mio successo, ciascuno con le mani abbassate a ricevere. Se fallisco. Il mormorio distante di una città che si sveglia riesce a distrarmi dal silenzio che ascoltavo sul filo e vedo François che danza per la gioia sulla torre sud e Jean-Louis che mi guarda attraverso l'obiettivo fotografico. Ora mi siedo sul filo col bilanciere in grembo. Appoggiato all'angolo d'acciaio io mi offro per trono la più alta torre che sia mai stata costruita dall'uomo e per tappeto cerimoniale la più selvaggia e gigantesca città delle Americhe. Per dominio una bacinella di mari che mi bagnino la fronte mentre le pieghe del mio mantello, scolpito dal vento, mi circondano con maestosi turbini mortali. E di nuovo mi alzo in piedi sul filo. Il fischio di una sirena mette fine al mio sogno ad occhi aperti. Colpendola con il tallone sveglio il cavo. Con un movimento della testa comincio a camminare. Passeggio da un capo all'altro del filo, avanti e indietro, fisso, orgoglioso, l'imperscrutabile canyon, il mio impero, il mio destino non mi vede conquistatore delle più alte torri del mondo, ma piuttosto del vuoto che esse proteggono. Vittorioso, indugio nel bel mezzo della traversata, proprio dove il vuoto, ora sconfitto, manifestava il suo potere. Mi siedo persino a guardare la scena, mi rallegro di poter assistere allo scompiglio creato dall'annuncio della mia fuga aerea. Lì laggiù il formicolaio è tutto in subbuglio, voci, sirene, urlano ordini, controordini sui tetti, per le strade, dove la voce della folla supera quella delle unità di emergenza. E da quella posizione lì seduta, il tempo di un desiderio e con un pizzico di arroganza, io scendo con fluidità in un superbo allungamento e mi metto disteso. In un gesto da matador, con una mano che lascia andare il bilanciere, ruota accanto alla spalla e obbliga l'altro braccio, apparentemente abbandonato, a ondeggiare nella colossale brezza. Dedico il mio lucente percorso d'acciaio, fremente per il sole, agli oceani che inumidiscono l'orizzonte, e a quell'uccello che passa di tanto in tanto più in alto, a tutto e a tutti coloro che rimangono distanti lì da terra. E adesso respiro, respiro come non ho mai fatto prima, una felicità così clandestina che mi porta a dormire. Mi sto addormentando. Sul mio tetto un uomo in uniforme, probabilmente il capo, demolisce la barricata che abbiamo costruito, raggiunge l'aria in cui il cavo è collegato al trifor, si piega verso il vuoto e mi osserva. E allora io decido di svegliarmi. Una corrente d'aria secca mi accarezza la testa, mi allungo e mi metto a sedere nuovamente sul filo. La città è diversa. La sua pazza fretta giornaliera si è trasformata in una magnifica immobilità. Ascolta, Filippo, ascolta, guarda, pondera, eh? Il cuore è così leggero che oso guardare giù, oso. E più volte, 1350 piedi di caduta libera, 100 metri più alta della Torre Eiffel. E allora voi, dei miei, dei del bilanciere, dei nei miei piedi, dei nel filo, dei nel vuoto, dei nei amici che guardano dalla strada, dei delle torri, dei di tutte le dimensioni, dei della partenza e dell'arrivo, e voi, dei di un miliardo di costellazioni, dei della folla, dei dell'aria sottostante, dei dell'aria soprastante, dei del vento, perché? Perché vi riunite per la prima volta solo stamattina? Perché? Perché non vi ritrovate più spesso? Ma ci sarà una prossima volta. Dai su, di nuovo in piedi, e mi rendo conto di essere in cima al mondo. Rido per la gioia. E finisco la traversata con l'estasi al posto dell'ossigeno nei polmoni. Quando raggiungo il bordo dell'edificio, io cambio direzione. No, non ho finito il mio show. Cambio direzione. Dietro di me, braccia che mi aspettano. Vicino all'arrivo, un altro vorace gruppo di braccia che tenta di afferrarmi, una triopra. Sorridendo, mi fermo a un passo dai tentacoli e faccio un'altra inversione di marcia. Ogni nuova traversata genera genuflessioni, saluti. Per caso, per la prima volta, i miei occhi mettono a fuoco la piovra all'estremità del filo, mentre io la contemplo senza paura, questa gesticola ed urla alla mia audacia. È composta da molti uomini in uniformi, Uomini infuriati. Come si ferma un fumando? Affascinato da un'improvvisa ondata di silenzio, io mi ritiro in un infinito equilibrio su una gamba, in cerca dell'immobilità che nessun funambolo può trovare sul filo. Oggi forse, con l'aiuto di questa altezza prodigiosa, io forse, ma ho già oltrepassato il limite. In queste regioni proibite, gli dèi potrebbero perdere la pazienza. E così offro il mio addio al cielo di New York e corro sulla fune che si agita di allegria. Guardate, sta correndo, sta danzando, urlano là sotto i miei amici applaudendo la mia uscita di scena. Discutono sul numero delle traversate. Ha attraversato 6 volte, no, 8, è rimasto sul filo 45 minuti, no, 1 ora. E io, uccello che si libera avanti e indietro tra i canyon, non ho contato i viaggi né mi sono curato del tempo che passava. Esagerata in se stessi. Non dovete perdonarvelo. Il funambolo è spettatore della sua stessa caduta. Con gli occhi spalancati volteggia attorno al filo per ritrovarsi aggrappato con un braccio o appeso per le gambe. Senza mai abbandonare il bilanciere, deve trovare lo slancio per rialzarsi e riprendere al più presto, con impeto maggiore, il movimento interrotto volte noi ascoltiamo gli applausi perché nessuno ha capito. L'errore è partire senza speranza, lanciarsi senza fierezza nella figura che si è certi di mancare. Attenzione, siete padroni del filo, è vero, ricordate però che l'essenziale è inscrivere nell'altitudine movimenti così immobili che non lascino traccia. L'essenziale è nella semplicità. Sulla platea voi dovete passare e soltanto passare. Vi si dovrà dimenticare. Io ho atteso la mia prima caduta pubblica, mi ha fortificato, mi ha inondato di un orgoglio gioioso, come un colpo sulla spalla che incoraggia più che far male. La seconda scivolata mi fece riflettere, mi ritrovai sotto il filo. Il terzo incidente è stato orribile, corsi il rischio di cadere. Malgrado ciò, io che ho tutto da perdere, persisto nei miei sogni di leggendari evasioni aeree che mi renderebbero infine giustizia. Perché? A colui che teme per la propria vita non accadrà forse di perderla prima degli altri? Lo studio del tuo cavo, la conoscenza dei tuoi limiti, non è questo che trasforma il rischio osceno in un pericolo che ti nobilita, ti protegge. Saprai esigere dal tuo destino di estinguerti sul filo. Possiedo la saggezza di colui che una volta è caduto, e quando mi si dice che un funambolo si è sfracellato al suolo, rispondo: ha avuto ciò che si meritava. Studiate il vostro corpo, il movimento delle braccia, il respiro delle dita della mano, la tensione delle punte dei piedi, la posizione del mento, i pesi dei gomiti. Non lasciate niente al caso, perché il caso è un ladro inafferrabile. Quando i carpentieri iniziano a costruire un ponte, quando i maghi esibiscono una cordicella per i loro trucchi, quando i bambini giocano a tiro alla fune e quando i funamboli clandestini installano un cavo, c'è sempre un momento in cui il filo penzola liberamente tra due punti e sorride. Con l'attore Massimo Popolizio per parlare della sua esibizione insieme a Javier Girotto per il reading musicato Toccare le nuvole di Philippe Petit. Massimo, ben trovato. Ciao a tutti, ciao, grazie. Raccontaci un po' di questa scelta. Stefano Cioffi, che è il curatore della, con cui ho fatto tante altre cose, che è soprattutto un amico prima che il curatore, mi chiede sempre di fare delle cose. E ne abbiamo fatte tante ormai, diciamo, avendo letto questo libro molti anni fa quando era uscito, che è un trattato sul funambulismo, mi sono detto perché non parlare di equilibrio, diciamo, in un momento in cui l'equilibrio potrebbe essere metaforicamente parlando, diciamo, la cosa

appoggiarsi al respiro dei piedi, come la corda non deve essere un nemico, come si è sempre e inevitabilmente soli. E poi una cosa molto carina, alla fine dice, sono due cose molto simpatiche che ho messo. Una è che quando si va in una città che si attraversa, dice il funambolo, quando gira per le città, fa la tournée, perché anche i funamboli fanno le tournée, non solo gli attori. Andate al monumento più alto della città e stateci sopra, cioè state su questo monumento, perché tu devi stare in alto, perché un funambolo non deve stare troppo tempo a terra. E un altro è: andate a vedere sempre uno spettacolo di funambolo, anche i più brutti, perché anche dal più brutto c'è sempre qualcosa da imparare. Con Girotto che tipo di esibizione avete pensato? Con Girotto, che anche lui ormai è un vecchio amico, se non facciamo mai, tu hai visto tante volte, non è solo un tennis, cioè dai, tocca a te, poi tocca a me, poi tocca, e non è neanche un accompagnamento, c'è sempre una sorta di contrapposizione musicale che sembra più un'operina tante volte, in cui la musica entra anche dal punto di vista drammaturgico. Io purtroppo sono un attore che nasce dal testo, per cui per me la cosa principale è che tutto ciò che accade intorno al testo serve per esaltarlo, il testo, in un certo modo. Quindi in questo caso la musica, e Girotto è molto carino perché mi asseconda, è sempre a servizio di ciò che noi diciamo, non tanto a servizio mio, voglio dire, ma tanto a servizio proprio delle parole. Ecco. C'è sempre, scusami, però c'è sempre un carattere poi da performance, perché tu sai che Girotto quando comincia a suonare non sai quando finisce, per cui è sempre Javier, è molto generoso quando suona, quindi è anche una sorta di improvvisazione, c'è sempre un margine di improvvisazione, come una session, capito, in cui ci parliamo, lui con uno strumento, io con il mio. Il vostro è un connubio artistico ormai collaudato. Sì, abbiamo fatto tante cose, abbiamo fatto Le città invisibili, che ti posso dire, ultimamente abbiamo fatto anche un Bukowski al Festival della Spiritualità a Torino, molto importante, sì, abbiamo fatto tante cose, parecchie, sì. Toccare le nuvole, testo di Philippe Petit, Massimo Popolizio insieme a Javier Girotto. Massimo, un abbraccio. Grazie, saluto a tutti, sei molto gentile come sempre, ciao. Con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica per curare l'agenda della settimana teatrale romana, ma non solo. Curare, insomma, non è che sta male. L'agenda no, però da tempo ormai si usa la teatroterapia, quindi potremmo tranquillamente pensare di curarci attraverso il teatro, questo sì. Ciao Simone! Ciao a tutti, buon pomeriggio! Dici tutto! Allora, beh, insomma, settimana abbastanza piena di appuntamenti, vediamo un po', anche diciamo di colleghi, ma questo ne parliamo tra poco. E dunque, intanto abbiamo appena ascoltato qualcosa dal Festival Flautissimo al Teatro Vascello, che continua, e questa settimana ha già proposto un lavoro su Robert Balzer ieri sera con Roberto Verlisca, mentre si viene in una letteratura più che contemporanea con Cormac McCarthy, il romanzo La Strada, che il 4 novembre, domenica, alle ore 18 verrà presentato con Guglielmo Poggi e la regia di Stefano Cioffi, con delle musiche eseguite dal vivo. Questo per quanto riguarda appunto il Festival Flautissimo al Teatro Vascello. Seguo con un po' di altre cose. Allora, questa è la settimana del debuttone, del debuttone di un mese praticamente, insomma, al Teatro Eliseo, sala grande, dell'eccezionale figura a metà fra storia e mito, che è il Cyrano di Bergerac di Edmond de Rostand, e anche un po' di Luca Barbareschi, che credo se ne sia anche poi ormai figurerà anche come autore del Bergerac, che inizia proprio questa sera fino al 25 di novembre. Insomma, la storia del Cyrano di Bergerac è abbastanza chiara e consapevole, comunque uno spadaccino e poeta che ha tutto sommato un naso che lo precede almeno di un quarto d'ora, come dice Rostand, ed è un po' un personaggio ormai dell'immaginario popolare che viene dalla storia letteraria. Cyrano de Bergerac si farà portavoce dell'amore di Cristiano per Rossana, di cui lui stesso è innamorato. Questo ormai è chiaro a tutti, dal 30 ottobre fino al 25 novembre al Teatro Eliseo per andarlo a vedere. Poi, allora, Off of Theater, sempre da questa sera andiamo all'interno di un lavoro che ha un po' a che vedere con la disabilità, fino al 4 novembre, quindi una settimana, per vedere questo lavoro di Matteo Nicoletta e Massimiliano Aceti, con la regia di Barbara Alesse, La rivoluzione delle sedie. È un lavoro con appunto questa tematica forte dedicata al confronto tra normodotati e diversamente abili, che va un po', insomma, cerca di svelare un po' l'ipocrisia e del senso di colpa di chi è normodotato nei confronti dei disabili, quindi un po' al contrario rispetto alla retorica classica, insomma, almeno per come ci viene spesso presentata, quindi interessante che il teatro faccia questo passo. 30 ottobre, 4 novembre, Off of Theater. Continuo portandoti alla Sala Umberto, dove da domani debutta Serra Yılmaz con ormai classico La bastarda di Istanbul, con Valentina Chico e altri attori, in scena la regia di Angelo Savelli, un testo di Elif Shafak, che porta ormai questo testo, La bastarda di Istanbul, ormai ha portato di fronte a 6.000 spettatori questo lavoro, quindi insomma abbastanza. L'autrice turca ha scritto un testo che insomma, in Italia ha avuto particolare attenzione e ha a che vedere con l'eccidio degli armeni all'opera dei turchi nel 1915. Questo per quanto riguarda la bastarda di Istanbul, che fino all'11 di novembre sarà in scena al Teatro Sala Umberto. All'Ambra Iovinelli arriva invece un testo di Mattia Torre, nostra vecchia conoscenza, fino all'11 novembre, inizierà domani il 31 ottobre. Geppi Cucciari, che apre questa stagione, porta in scena Perfetta, che Mattia Torre scrive e dirige. Quindi attenzione, perché i monologhi di Mattia Torre ce li ricordiamo con particolare attenzione e piacere, un autore assolutamente particolare e un po' a metà, no? Fra il linguaggio cinematografico della serie TV e quello del teatro, da cui insomma proviene, uno dei pochi che riesce a stare tranquillamente e con facilità in entrambi i settori. Quindi 31 ottobre, 11 novembre, Mattia Torre presenta Geppi Cucciari in Perfetta. Continua il Corpo Perfetto al Teatro Brancaccino con Lavinia Savignoni, ancora per questa settimana. Questa settimana invece, 2-3 novembre, Analisi illogica sarà al Teatro Marconi, una commedia che diverte con la suspense del thriller, quindi andiamo a vedere questo lavoro con un'attrice insomma, abbastanza particolare, che forse abbiamo conosciuto nella nostra infanzia, almeno qualcuno di noi può parlare di infanzia, altri forse chissà, possono parlare di adolescenza o poco oltre. La famosa Tata di Casa Vianello, Giorgia Trasselli, una delle due attrici, Federico, di questo debutto nazionale al Teatro Marconi con Analisi illogica. E questa era una cosa che non mi aspettavo effettivamente, della settimana teatrale, me ne sono reso conto strada facendo. Mentre allora ti dicevo anche di colleghi che si muovono questa settimana, e beh, perché domani, anzi no, stasera, perdonami, stasera inizia tutto esaurito, l'ottava edizione del mese del teatro che Radio 3 dedica appunto all'arte scenica e che si apre con un grandissimo appuntamento alla Sala di Via Asiago, appunto alle ore 21. Ci saranno frammenti di Panorama, questo spettacolo di cui parleremo tra poco, che debutterà al Romaeuropa Festival, al Teatro Vascello per Romaeuropa Festival il 31 ottobre, quindi domani, e ne parleremo tra poco. Ma soprattutto ci sarà questo lavoro firmato da Vico Quarto Mazzini, Michele Altamura e Gabriele Paolo Ca, che sono appena stati con Vieni su Marte, pronto al Romaeuropa Festival. Hanno riscritto, ridiretto e reinterpretato La guerra dei mondi 80 anni dopo, dal celebre capolavoro radiofonico di Orson Welles. Quindi qualcosa di molto molto intrigante il lavoro che hanno realizzato con appunto la fantascienza e questa riflessione sui mondi altri, le dimensioni interplanetarie, Vico Quarto Mazzini, appunto in diretta dalla sala di Via Tiago domani dalle ore 21. mentre la settimana del teatro, lo ricordo, andrà avanti con un altro appuntamento domenica 4 novembre, sempre alle ore 21. Maria Paiato presenterà Cenere e Ombra, è un radiodramma originale firmato da Sergio Pierattini sulla vicenda del Milite e Ignoto, con le musiche composte dal nostro amico Gianluca Misiti. Sempre il 4 novembre, per chi volesse, per i piccoli, al Teatro Centrale Preneste, alle 16:30 ci sarà Strega Bistrega di Fabio Traversa e Tiziana Lucattini per i bambini, insomma, perché no? Perché non intanto ricordare anche questo teatro che fa ottimi lavori per l'infanzia. Qualcos'altro? Sì, al Teatro del Lido di Ostia, sempre domenica 4 novembre alle ore 18. È difficile seguire tutti gli spettacoli di domenica, però noi vi diciamo tutti. È già stato al Teatro Eliseo, ma adesso se ne va al Teatro del Lido di Ostia, Lino Musella, con un percorso attraverso i versi dei 30 sonetti shakespeariani. L'amore non è amore, perché evidentemente sono stati traditi, tradotti e quindi traditi in napoletano dall'artista Dario Iacobelli. Quindi la regia è firmata sempre Lino Musella, in scena c'è Lino Musella con cordofoni e percussioni di Marco Vidino, assolutamente da non perdere, perché hanno parlato davvero davvero bene di questo lavoro di Lino Musella. Quindi domenica alle ore 18, Roma Europa Festival, l'abbiamo già detto poco fa, c'è il debutto di Motus, 31 ottobre, 3 novembre, Teatro Vascello con Panorama, che è la collaborazione avuta dalla compagnia dei Motus con la Great Jones Repertory Company di La Mama di New York. Ed è molto intrigante il lavoro, perché è un'indagine sul movimento dei popoli, una ricerca sul concetto di identità post-nazionalista. Assolutamente da non perdere questo lavoro sul nomadismo come una proprietà intrinseca dell'esistere. E appunto ripercorre la storia del secondo Novecento attraverso le guerre in vari sud del mondo. La compagnia Motus, ma appunto ha visto nel nostro mondo occidentale per una sorta di autocritica decisamente postuma. Questo per quanto riguarda Teatro Vascello, Motus, 31 ottobre, 3 novembre, Panorama per Roma Europa Festival. Ma Roma Europa presenta anche il Gospel, The Gospel According to the Other Mary, per John Adams con l'orchestra e corda dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 2, 3 e 4 novembre, che affrontando il compositore John Adams il tema della passione di Cristo. Quindi anche questo lavoro, un po' più diciamo elitario, ma interessante per Roma Europa Festival, con la prima esecuzione italiana di questo The Gospel No. According to the Other Mary. Ancora, Federico, ti porto al Teatro Quarticciolo per uno degli appuntamenti un po' della settimana, che voglio ricordare, mi preme molto perché io tengo molto a Oscar de Somme come attore, come autore. Presenta Soul Music dal lato opposto, 3-4 novembre al Teatro Quarticciolo per questa storia della formazione di un gruppo di musica soul nella Puglia negli anni 90. Ancora cerca Oscar de Somme di far dialogare il mondo della cultura contadina con quello che si andava a dichiarare come contemporaneo, questo gruppo di ragazzi, un po' simile un po' agli altri spettacoli che De Summa ha preparato in questi anni e che avevano un po' come immaginario la Puglia di quegli anni, vanno appunto a prenderla dal lato appunto della musica. 3 e 4 novembre, Soul Music, dal lato opposto, di e con Oscar De Summa Teatro, Quarticciolo. Ma non è finita, Federico, perché le ultimissime informazioni mi piace darle per questo lavoro firmato da Emma Dante, che se ne va al Teatro India a presentare La Scortecata di Giambattista Basile dal 30 ottobre, che è stasera, fino all'11 novembre. Emma Dante appunto trae da Giambattista Basile, dallo Conto dei Conti di Giambattista Basile, questa pièce che prende il nome La Scortecata, un'opera scritta, sono 50 fiabe in lingua napoletana, che è stata scritta dall'autore negli anni 30 del 1600. Salvatore D'Onofrio e Carmine Maringola vestono i panni di due vecchie tormentate dal desiderio, ossessionate a tal punto dall'amore per il re, da compiere il più estremo dei getti, scorticarsi per far uscire dalla pelle vecchia la pelle nuova. Questo è il lavoro di Emma Dante da stasera fino all'11 di novembre al Teatro India. E questo, Federico, direi che è abbastanza e quindi è tutto. Ci sentiamo martedì prossimo, sempre allo stesso orario. Un abbraccio e ci si vede anche a teatro. Ciao Simone. a tutti. Ciao.